Agora in onda. Agora in onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri. Però era importante iniziare la trattazione di questo argomento partendo proprio da questa notizia così importante che ha riguardato l'opinione pubblica internazionale: Facebook, YouTube. Ultimamente, insomma, abbiamo visto anche per quanto riguarda i bambini, la profilazione dei bambini sotto i 13 anni, e quindi ti chiedo invece per quanto riguarda anche la tutela dei minori rispetto al mondo social. Beh, è particolarmente complicata la tutela dei minori, come la tutela in generale della protezione dei dati. È complicata per la tipologia di strumento, per la complessità degli strumenti e per questi sistemi di condivisione anche dei dati, che purtroppo hanno, diciamo, dei limiti difficilmente percepibili o individuabili dall'utente che si approccia al social network o piuttosto, insomma, alla piattaforma di condivisione video. Quindi per il minore lo è ancora più difficile e ahimè purtroppo la disciplina del regolamento la disciplina del regolamento prevede una novità significativa, che è quella dell'obbligo della possibilità di esprimere un consenso da parte del minore ultra sedicenne, mentre chiaramente al di sotto c'è la necessità dell'acquisizione del consenso da parte dell'esercente autorità genitoriale. Gli stati membri possono abbassare l'età, quindi possono prevedere un'età più bassa, la possibilità di esprimere il consenso anche al di sotto dei 16 anni, comunque non oltre non al di sotto dei 13, quindi al di sotto dei 13 anni è necessaria l'acquisizione. Quindi questo è un consiglio per i genitori, che debbono fare attenzione quando i propri figli, anche per le cose che abbiamo condiviso già in questa rubrica radiofonica del bullismo e del cyberbullismo, che è all'attenzione proprio quotidiana ormai anche per i casi scolastici, e quindi l'acquisizione dei dati, che è un po' diversa da quello che abbiamo visto oggi nelle cronache giornalistiche delle ultime ore rispetto alle aggressioni che i bambini hanno fatto nei confronti degli insegnanti. Ma la condivisione è uno strumento che i ragazzi, i cosiddetti nativi digitali, oggi hanno, e quindi tutelare da parte dei genitori l'utilizzo improprio della piattaforma con la condivisione di tante informazioni è sicuramente una necessità che deve riguardare chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori. Abbiamo detto, il consenso può essere dato per i ragazzi che hanno superiore ai 16 anni, e poi è lasciata la facoltà allo Stato membro di abbassare la soglia fino ai 13 anni. Ed è questo quello che il presidente del Parlamento europeo Tajani ha richiesto a Zuckerberg, fondatore di Facebook, nell'audizione che spero avverrà nel Parlamento europeo, proprio per discutere di queste particolari tipologie di acquisizione dei dati. Noi siamo social, quindi condividiamo ogni giorno fotografie, stati d'animo, informazioni della nostra persona, e quindi questi dati però dobbiamo sapere come vengono gestiti. E allora ritorniamo più dal punto di vista adesso specifico. Nel caso specifico un'informativa c'era, veniva utilizzata un'applicazione collegata alla piattaforma Facebook attraverso il login Facebook. Praticamente c'è stata una condivisione dei dati del social, e chiaramente a quel punto i dati sono stati utilizzati da Cambridge Analytica attraverso dei sistemi, dei software particolarmente avanzati e sofisticati, in grado di profilare in modo molto molto sofisticato gli utenti, e quindi potendo a quel punto utilizzare le informazioni assunte con una profilazione di grado molto avanzato per orientare le scelte degli utenti da un punto di vista elettorale, addirittura elettorale e politico, come sappiamo, con riferimento, nel caso più eclatante, anche all'elezione di Trump. Quindi ecco, chiaramente cogliamo insieme la gravità della cosa, cioè la gravità intanto la condivisione dei dati, ma poi e l'utilizzazione dei dati, ma poi il fatto che questi dati di ritorno possano essere in grado di manipolare la volontà degli utenti. Quindi è chiaro che è un circolo vizioso che ha portata, insomma, diabolica, direi. Quindi ecco, proprio perché è molto sensibile e soprattutto molto quotidiano l'utilizzo dei nostri dati, volevo partire proprio dalla definizione di dato personale che viene inserita all'interno del regolamento. Il dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, quindi parliamo di persone fisiche, identificata o identificabile, e si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo, il nome, un numero di identificazione, i dati relativi all'ubicazione, un identificativo online, quindi il profilo social, o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale e sociale. Quindi è proprio questo che poi la Cambridge Analytica ha messo insieme per orientare, diciamo così, anche la scelta di cui parlavi poc'anzi, dimostrata ormai o in corso di approfondimento da parte anche delle autorità statunitensi per orientare il voto negli Stati Uniti. Quindi la portata è molto molto alta, è estremamente diffusa e soprattutto riesce ad orientare molto le persone, e quindi da questo punto di vista la conservazione è estremamente importante. Allora, la normativa che stiamo commentando, che entrerà in vigore, ripeto, il prossimo 25 maggio, il regolamento europeo è il numero 679 del 2016, ti chiedo a chi si rivolge in particolare e chi sono i soggetti che sono tenuti a rispettarla. Allora, diciamo che la normativa è una normativa volta alla protezione dei dati personali, quindi il presupposto è che ci sia un trattamento di dati personali. Il dato personale è quel dato che, appunto, è, come dicevi leggendo la definizione, è riferito ad una persona fisica identificata ed identificabile. Chiaramente non può riguardare società, enti. Il dato personale è un dato riferito ad una persona fisica. Al di fuori di questo elemento non siamo nell'ambito di applicazione del regolamento sulla privacy, ed è chiaro. Dopodiché chiaramente i soggetti titolari, cioè coloro che trattano i dati, per essere stati comunicati con varie finalità dai soggetti interessati, chiaramente sono destinatari della normativa, perché sottoposti agli obblighi del regolamento ai fini di un trattamento corretto. Quindi parliamo di enti pubblici, parliamo di aziende, parliamo di soggetti, di tutti quei soggetti che nell'ambito di un ordinamento giuridico possono in qualche maniera raccogliere dati, farne un trattamento automatizzato totalmente o parzialmente, o anche semplicemente, scusate, raccoglierli in un archivio. Un archivio. Quindi anche ad esempio le mailing list vanno regolamentate, anche quelle? Certo, nella misura in cui, appunto, contengono dati che siano, appunto, riferiti ad una persona individuata o di individuabile, perché quello è il dato. Se il dato è completamente anonimo, chiaramente non è un dato personale. Quindi, però se è identificabile, secondo la nozione che abbiamo, di cui abbiamo parlato poc'anzi, sicuramente vanno trattati a seconda dell'utilizzo che ne viene fatto. Quindi può essere un dato informatico, un dato anche cartaceo, perché possiamo parlare di archivi. Il vecchio archivio cartaceo è un sistema di raccolta che la normativa prevede, o addirittura un insieme di dati che siano in qualche maniera destinati ad un'archiviazione cartacea, no? Determina una applicazione, diciamo un'applicazione effettiva del regolamento della normativa privacy, perché ripeto, si tratta di dati destinati ad essere raccolti in un archivio. Quindi da questo punto di vista i dati vengono raccolti, ma poi c'è la persona fisica, individuabile, individuata, che deve dare il proprio consenso. Quindi questo è un altro elemento importante della normativa, sì, che già esisteva nella normativa italiana, che è il testo unico, il 196 del 2003, ma ad oggi rivista alla luce del nuovo regolamento europeo, che entrerà in vigore il 25 di maggio. Quindi i principi sono quelli di liceità, correttezza e trasparenza. Questi sono i principi che in qualche maniera informano tutta la disciplina per la privacy con riferimento al trattamento dei dati personali. E quindi sì, insomma, fondamentalmente ci sono una serie di obblighi. Il consenso dell'interessato è una delle basi di liceità del trattamento, non è l'unica. può darsi, faccio l'esempio, che l'obbligo sia la base di licenza sia un obbligo legale. L'ipotesi è quella dei soggetti pubblici, quella più eclatante o evidente, se volete. Chiaramente ci sono delle leggi sulla base delle quali il soggetto pubblico è legittimato, quindi in quel caso non c'è la necessità di acquisizione di un consenso, ma potrebbe essere un soggetto privato che ha necessità, o meglio, che ha l'obbligo di legge al fine di, quindi a quel punto ugualmente posso fare l'esempio di finalità fiscali, per i quali, per esempio, non so, un dato soggetto che svolge attività imprenditoriale acquisisce dati relativi, dati bancari o dati fiscali, o dati, diciamo, relativi all'identificazione fiscale di un soggetto, quel soggetto ha un obbligo di legge, o l'altra base di illecità, l'obbligo derivante dall'esecuzione di un contratto. Quindi queste forme sono quelle che in via più generale legittimano, al di là, no, dell'ipotesi del consenso, che è più specifica e in ogni caso chiaramente è prevista, che legittima un trattamento dei dati. Quindi abbiamo detto conservazione e archiviazione da parte del titolare del trattamento, colui che utilizza i dati, consenso da parte della persona identificata o identificabile, che o sono base legale alternativa oltre al consenso. Quindi c'è un obbligo o di legge o sulla base volontaria del consenso da parte dell'interessato, e quindi la gestione. Certamente il consenso, scusa se ti interrompo, è necessario in tutte quelle ipotesi in cui diciamo il trattamento ha una finalità di marketing. In quel caso è senz'altro necessario ed indispensabile un consenso informato, consenso specifico, libero, informato ed inequivoco. Esatto, perché tu hai toccato un altro tema importante, che è quello della profilazione dei dati a fini di marketing, a fini commerciali, quindi l'individuazione di particolari soggetti a cui possono determinare una particolare fascia di prodotti o di altri prodotti presenti sul mercato, quindi di fatto utilizzati dalle aziende per selezionare. E infatti il tema dei dati è un tema fondamentale anche da parte delle imprese che gestiscono dati, perché hanno un valore molto importante anche dal punto di vista commerciale, cioè spostare, avere un archivio dati significa poter vendere anche, creare delle nicchie e soprattutto dare alle aziende la possibilità di inserire degli spazi pubblicitari personalizzati con dei target particolari. Quindi ecco, i nostri dati sono molto utilizzati a livelli alti dalle imprese e dal mercato in generale, quindi chi fa acquisizione dei dati ha un grandissimo potere in questo senso. Dall'altro lato però abbiamo parlato del titolare del trattamento, del consenso informato, esistono però un aspetto sanzionatorio che molto importante, perché ovviamente una norma contiene l'indicazione di che cosa bisogna fare, ma anche delle sanzioni che poi alle quali si rischia di incorrere, e in questo caso specifichiamo quali sono le sanzioni per un utilizzo scorretto, non conforme al nuovo regolamento, che cosa prevede il regolamento nello specifico per le sanzioni. Allora, il regolamento apporta una novità rilevante, quella per cui diciamo c'è un particolare sommovimento e fibrillazione nell'ambiente, nel tessuto imprenditoriale, non soltanto, insomma, italiano ed europeo, e cioè con particolare riferimento all'aspetto sanzionatorio e dalle sanzioni amministrative pecuniarie, che sono piuttosto, insomma, importanti e molto più elevate che in passato. Allora, queste sanzioni, almeno quelle previste dal regolamento, sono, diciamo, raggruppate in due fasce. Una prima fascia è una sanzione fino a 10 milioni di euro, o in alternativa per i soggetti, appunto, imprenditoriali, fino al 2% del fatturato, se superiore ai 10 milioni. L'altra fascia invece chiaramente prevede sanzioni ancora più cospicue, fino a 20 milioni di euro, o per i soggetti imprenditoriali il 4% del fatturato, ove superiore ai 20 milioni. Chiaramente questa doppia fascia dipende dalla gravità di violazioni, in un caso faccio nel primo caso, diciamo, riguarda l'applicazione di queste sanzioni, riguarda il mancato rispetto di tutta, diciamo, la normativa sulle misure adeguate al fine della protezione dei dati, incluse quelle relative alla nomina del DPO, alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati, e diciamo è già particolarmente gravosa. L'altra, la fascia più elevata, riguarda per esempio il mancato rispetto dei diritti del soggetto interessato, o piuttosto la violazione, diciamo, del regolamento sotto il profilo delle norme che regolano il trasferimento dei dati all'estero, fuori dallo spazio UE. Quindi, diciamo, sono due gruppi di sanzioni, ci rendiamo conto, piuttosto importanti, che riguardano diverse tipologie di violazioni, chiaramente più o meno gravi. Quindi un impianto sanzionatorio molto pesante per chi dovesse incorrere, appunto, nella violazione delle norme sulla privacy, e quindi anche le aziende dovranno fare uno sforzo che spero non sia visto soltanto come un adempimento burocratico, ma anche una spesa per investimento, perché oggi nella società, come dicevamo, digitale, è importante avere anche la circolazione dei dati, purché però rispettino le norme sulla privacy degli interessati. Quindi da questo punto di vista la compliance aziendale è un dato fondamentale, direi, visto che parliamo di tutele e difese dei soggetti interessati, degli utenti dei servizi internet o comunque dei destinatari di servizi e prodotti. La compliance aziendale in materia privacy è un elemento significativo per poter individuare un soggetto credibile anche sotto il profilo dell'offerta economica, e quindi serio, da soggetti che invece poco. Conservazione dei dati delle persone con le quali entra in contatto, e quindi la conservazione sarà un elemento, diciamo, di valutazione anche in termini di puntualità a conservazione, perché poi i dati vengono utilizzati dalla stessa impresa proprio anche per scopi commerciali, e quindi da quel punto di vista è altrettanto importante che l'impresa si adegui a questo nuovo regolamento, proprio per evitare, non solo per evitare le sanzioni, ma anche per dare la certezza del trattamento dei dati ai propri clienti, fornitori e quant'altro. Solo brevissimamente, non solo si adegui, adotti misure tecniche ed organizzative adeguate, ma si è in grado di dimostrare che questo processo di adeguamento in termini organizzativi, tecnici, sia stato effettivamente effettuato, perché è proprio la novità di questo regolamento nell'ottica, diciamo, forse più del diritto anglosassone che non del civil law, è proprio quella della accountability, cioè un processo di responsabilizzazione dei soggetti titolari del trattamento, responsabili del trattamento, che appunto hanno le incombenze normative di trattare i dati in maniera lecita. Quindi traduco, un'incombenza non soltanto di natura formale, ma che sia verificabile l'attenzione che i titolari dei trattamenti, quindi le imprese, i soggetti designati da parte dell'impresa stessa, debbono avere per la gestione dei dati, quindi non soltanto una mera compilazione sì, cartacea o informatica dell'adempimento, ma che quell'adempimento invece sia effettivamente verificabile sul campo. Da questo punto di vista, questo è un pochettino la sintesi del discorso che l'avvocato Manni aveva fatto. Ok, questo è un argomento veramente interessante, potremmo parlare per giorni di questa cosa, però finora abbiamo parlato, in chiusura facciamo due battute e poi chiudiamo, abbiamo parlato degli obblighi, diciamo, delle aziende nei confronti, insomma, dei dati personali delle persone, del consumatore finale, però possiamo dire che magari hanno fatto leva anche sulla poca consapevolezza da parte degli utilizzatori, cioè da parte di chi utilizza internet. Noi siamo su internet, però probabilmente non lo sappiamo utilizzare. Magari semplicemente glissiamo su aspetti quali sono informative privacy e similari, perché siamo abituati comunque a navigare, a muoverci, insomma, con una certa velocità, rapidità, e quindi a saltare dei passaggi che possono essere importanti. Nel caso Facebook l'informativa c'era, poi questa, diciamo, condivisione fuori dell'applicazione del servizio collegato alla piattaforma Facebook, nel caso specifico da parte di Cambridge Analytica, era illegittima, e chiaramente quello sì. Un illecito è stato fatto. Non era prevedibile, insomma, non era prevedibile dall'utente, è chiaro. un sistema di protezione più adeguato da parte di Facebook probabilmente poteva garantire una maggior tutela, ed è chiaro che è su questo che si cercherà di far leva, insomma, complice le sanzioni e le perdite economiche che sono particolarmente rilevanti. Sulla parte però che sulla domanda di Francesco aggiungo, un utilizzo consapevole dei social rende sicuramente tutti più attenti rispetto alla condivisione di dati personali, e quindi gli stessi utenti ne debbono fare un uso attento, non indiscriminato, perché poi i dati possono essere utilizzati anche per scopi non prettamente leciti, come abbiamo visto. Quindi soprattutto abbiamo detto a metà della trasmissione quello riguardante i minori e soprattutto l'influenza che possono avere i social sulla crescita dei minori, e questa è cronaca purtroppo quotidiana di quello che vediamo sulla condivisione. Siamo partiti nella nostra trasmissione sul cyberbullismo, e con l'utilizzo dei dati purtroppo condiziona, al di là del trattamento formale, poi sì, la viralità e soprattutto le possibili conseguenze che possono derivare da un uso non consapevole dei social media. È importantissima la parte del regolamento relativa appunto alla disciplina dei diritti del soggetto interessato con riguardo a questo fenomeno particolarmente, insomma, spinoso del cyberbullismo. Si è discusso del diritto all'oblio, che deve essere che è specificamente disciplinato nel regolamento, che deve essere oggetto di informativa appunto privacy, ma che fondamentalmente è una forma di tutela di carattere fondamentale per il soggetto interessato. Resta il fatto che proprio la complessità di questi sistemi rende difficile una effettiva attuazione del diritto all'oblio. Il regolamento prevede che debbano essere messe in campo le misure ragionevoli sulla base delle tecnologie disponibili che consentano di ottenere questa cancellazione. Di fatto sappiamo, e l'esperienza ce lo dice l'esperienza, diciamo, di questi, ahimè, casi eclatanti e dolorosi, e purtroppo la cancellazione arriva sempre in ritardo, non è mai definitiva. Allora, noi, Francesco, abbiamo quasi terminato lo spazio a disposizione. Abbiamo parlato oggi di privacy, sperando di aver fornito agli ascoltatori, oltre in una lunghissima trafila anche di natura giuridica, però delle informazioni utili per coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Torneremo sicuramente sull'argomento, perché come dicevi tu, Non basta una puntata. Io ringrazio l'avvocato Emilio Manni per la sua presenza oggi in studio e per essere stato con noi a parlare di privacy. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, a te Francesco che ci hai seguito oggi con attenzione, un saluto a Stefano che tornerà dai microfoni di Radio Onda Libera, spero il prima possibile la prossima settimana, e quindi ci vedremo con lui in diretta la prossima settimana. E a me non resta che augurare a tutti i nostri radioascoltatori un buon fine settimana e un appuntamento alla prossima. Mi unisco ai tuoi saluti per Stefano, che probabilmente venerdì prossimo sarà qui per Agora in Onda per una nuova puntata. Ringrazio l'avvocato Emilio Manni, lo ricordiamo, partner dello studio legale Agora, esperto in materia di privacy. Ringrazio l'avvocato Marco Mampieri, e ovviamente è tutto rimandato a una prossima puntata di Agora in Onda, ovvero venerdì prossimo. Noi ci sentiamo tra poco. Agora in Onda. Agora in Onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri.